Runtime Radio presenta Michela De Paola in Paucracy, animali rivoluzionari. Ciao, io sono Michela De Paola e questa è Paucracy, animali rivoluzionari. Prima di iniziare con questo episodio, vi ricordo che Paucracy fa parte di un progetto più ampio chiamato Runtime Radio, la radio geek. Se volete scoprire quello che facciamo, basta andare su www.runtimeradio.it o su spreaker.com/user/runtime. Se volete contribuire al grande sforzo produttivo e creativo del nostro network, basta andare su runtimeradio.it/anch'io. Per quanto riguarda questo programma, ci trovate su spreaker.com/show/paucracy e su tutti gli aggregatori podcast principali, da iTunes a Spotify. Per ora, per contattarci, potete scriverci a paucracypodcast@gmail.com. Ma veniamo all'episodio. Il nostro viaggio nei cani che vivono liberi sul territorio prosegue. Questa volta abbiamo invitato gli amici di Stray Dogs International Project e siamo veramente felici e onorati che abbiano accettato il nostro invito. Personalmente ritengo che il loro lavoro sia il vero valore aggiunto che ci aiuta ad unire i punti in questo percorso di costruzione di una convivenza consapevole tra cani e umani e un grande lavoro di tutela di questi animali, percorsi costruiti attraverso la condivisione di studio e informazione. E poi scusate, se questo è il podcast degli animali rivoluzionari per eccellenza, non potevamo assolutamente non fare di tutto per avere coloro che a questi spettacolari animali stanno dando voce. Ascoltiamo l'intervista. Allora, bentornati amici di Paucracy. Questa sera con noi abbiamo due ospiti veramente molto speciali. Abbiamo con noi Clara Caspani. Buonasera Clara. Buonasera. Clara vive e lavora a Firenze, è vicepresidente e fondatrice dell'associazione Stray Dogs, educatrice cinofila SIUA e istruttrice cinofila in formazione. È una grande viaggiatrice, ha sei zampe e ha deciso di unire la passione per i viaggi al mondo dei cani liberi. E insieme a lei, per parlare di Stray Dogs, abbiamo Lorenzo Nicolini. Buonasera Lorenzo. Ciao Michela, ciao. E Lorenzo vive e lavora a Bologna, è presidente e fondatore dell'associazione Stray Dogs, è educatore e istruttore cinofilo, collabora in progetti di conservazione e gestione della fauna selvatica e di sensibilizzazione culturale sugli animali. Benvenuti ragazzi, benvenuti ancora. Grazie. Allora, io intanto vi chiederei di presentare voi, anche se in parte l'ho già fatto minimamente, sicuramente il vostro lavoro è ben altro, e soprattutto il vostro progetto, come è nato e perché avete sentito l'esigenza di costruire questo grandioso progetto. Vai, inizio io. Beh, intanto grazie mille Michela per la presentazione, molto bella. E quindi ecco, siamo molto contenti di poter presentare il progetto per chi non lo conoscesse o per chi magari ci segue e vuole approfondire un po', insomma, quello che facciamo. Diciamo che Stray Dogs è nato dalla curiosità. Dalla curiosità di due colleghi e amici, cioè io e Lorenzo, che ci siamo ritrovati poi per strada nella cinofilia e da lì abbiamo intrapreso un viaggio in Marocco, la prima volta che siamo stati, diciamo, in viaggio per andare proprio a vedere, un po' osservare i cani randagi, e da lì poi ecco è partito il progetto Stray Dogs. Dico che è partito dalla curiosità proprio perché c'era una spinta e una motivazione, una voglia di andare a osservare questi cani che vivevano non sotto il controllo dell'uomo, no? Quindi per andare un po' ad approfondire chi sono realmente questi animali che comunque ci stanno accanto da così tanto tempo e come vivono e come cercano, no, in tutti i modi di convivere vicino a noi. Questo perché? Perché partendo da una base dove magari avevamo a che fare con proprietari di cani, con i propri cani di famiglia, insomma, volevamo andare a capire un po' di cose, non a capire un po' di cose noi, ma farci spiegare dai cani liberi un po' come possiamo aiutare anche i cani di famiglia e chi è realmente il cane. E quindi ecco, da questo primo viaggio poi ci siamo entusiasmati, siamo stati una settimana in Marocco dove praticamente abbiamo dormito forse 2 ore, siamo tornati con tantissimo materiale video, con tantissima energia, con tantissime idee, e da lì abbiamo sviluppato poi il progetto, che il primo anno magari avevamo più un'idea di documentaristica sui cani, mentre poi invece, aprendo delle collaborazioni con delle associazioni che erano sul territorio in Marocco, piano piano, diciamo un po' per caso, no? Un po' per destino, a me piace dire, poi si è sviluppato invece un vero e proprio progetto dove si sono aperte poi delle vere e proprie collaborazioni con delle persone sul territorio che portavano avanti un lavoro veramente difficile di gestione del randagismo in una terra anche difficile, ed è stato un po' il nostro campo di prova dove abbiamo osservato, dove ci siamo messi alla prova, dove i cani ci hanno fatto veramente capire tante cose, dove ci hanno anche smontato un sacco di idee che avevamo e che abbiamo poi piano piano negli anni riportato un po' anche nella situazione italiana del randagismo, e anche soprattutto ultimamente stiamo cercando di riportare poi alle persone anche che convivono con i propri cani nelle case, nelle città, per far capire un po' come possiamo aiutarli partendo appunto dalle conoscenze che ci hanno dato i cani liberi. Perfetto. Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? No, bene o male, quello che ci lega sicuramente è che ci fa andare avanti in un progetto comunque, diciamolo, autofinanziato, è proprio la passione, la voglia comunque di, e la necessità che ormai abbiamo di saperne di più, di conoscere di più la realtà dei cani. Quindi insomma, riusciamo ormai da 7 anni a portare avanti questo progetto e a cercare nuovi spunti sempre anno per anno, per approfondire, per ampliare un po' quello che sono gli studi che portiamo avanti, le ricerche che portiamo avanti, e ingrandire un po' anche l'associazione, perché comunque nel tempo sta crescendo e si stanno unendo a noi sempre più persone, insomma. Ok, qual è l'approccio che seguite nello svolgere il vostro lavoro? Quindi qual è il metodo, se così possiamo chiamarlo, se ce n'è uno solo, e quali sono gli ambienti dove poi potete divulgare le vostre conoscenze e il lavoro che avete svolto? Ma guarda, in generale, come diceva Clara, l'idea iniziale era proprio documentaristica, quindi di cercare di documentare anche attraverso dei filmati, dei montaggi anche, piuttosto che delle interviste, documentare quello che tante volte le persone non hanno la possibilità di vedere, quindi realtà diverse da quelle di casa. E non solo in Italia, ma proprio anche in giro per il mondo, poterle documentare e quindi portare in un certo senso poi le persone a viversi un approccio diverso proprio al mondo del cane, al mondo degli animali liberi. E in questo quindi rimane un po' anche la nostra intenzione, quella di poter fare magari in futuro anche un documentario, qualcosa di un lavoro di questo tipo. Per il resto però poi ci siamo sempre più specializzati nello studio proprio approfondito, e quindi nella ricerca, e abbiamo istituito un comitato appunto di ricerca all'interno dell'associazione, e tramite questo portiamo avanti degli studi e progettiamo appunto delle attività sul campo che ci servono a raccogliere dati, a raccogliere informazioni, e per poi fare delle pubblicazioni e portare avanti insomma un po' tutto il discorso legato all'evoluzione un po' della cinofilia, anche che pensiamo possa partire anche o possa progredire grazie al cane randagio. E nel tempo sicuramente abbiamo sviluppato anche tutta una serie di competenze nell'ambito della divulgazione attraverso seminari, attraverso serate informative, attraverso i social, e quindi insomma abbiamo diverse possibilità per poter spiegare, portare a tutti quelli che sono interessati all'argomento le ricerche che portiamo avanti, gli studi che portiamo avanti, e quindi diciamo che la nostra intenzione sarebbe di arrivare a più persone possibili, anche perché nel mondo della cinofilia poi non siamo tantissimi, e quindi in un modo o nell'altro ci si conosce quasi tutti, e nel tempo arriviamo spesso a pensarla allo stesso modo, e quindi il cambiamento non potrà arrivare da quelli che la pensano allo stesso modo. Siamo convinti che certi cambiamenti, specialmente culturali, debbano arrivare dalle persone che la pensano in modo diverso, e quindi poter arrivare a quelle persone è il nostro obiettivo. Quindi ci stiamo muovendo proprio per cercare di ampliare il nostro, tra virgolette, pubblico, insomma. Ok. Potete raccontarci qualcosa dei progetti che avete portato avanti fino adesso, che magari si sono conclusi? Poi magari di quelli in corso parliamo più tardi. Sì, certo, volentieri. Allora, diciamo che anche per riprendere un po' la domanda di prima, quando portiamo avanti dei progetti li distinguiamo un po', nel senso che portiamo avanti di più tipi, no? Abbiamo dei progetti, ad esempio, che portiamo avanti proprio sul territorio, dove però ci avvaliamo sempre della collaborazione di associazioni o volontari del territorio, perché come hai detto tu prima, io sto a Firenze, ma comunque viaggio spessissimo, e Lorenzo sta a Bologna, quindi è fondamentale avere appunto delle collaborazioni sul posto. E quindi ecco, portiamo avanti dei progetti sul territorio, come ad esempio in Marocco, dove siamo stati per 5 anni a osservare e ad aiutare le associazioni nella gestione del randagismo, per poi, quando ci siamo spostati in Italia, aver portato avanti dei progetti in Sicilia, una collaborazione con Save the Dogs in Campania, a Licola, dove hanno impostato un progetto molto molto bello su sterilizzazioni e gestione dei cani sul territorio, dove li abbiamo aiutati tramite l'utilizzo di un'applicazione che abbiamo prodotto per il censimento e il monitoraggio dei cani, ma anche delle colonie feline, quindi proprio un vero e proprio strumento informatico che diamo ad esempio alle associazioni che ne fanno richiesta, ma comunque associazioni che devono portare avanti un progetto strutturato e serio per poter utilizzare questo strumento, perché pensiamo che solo così si possa poi veramente arrivare a una buona gestione equilibrata ed una buona convivenza sul territorio. Stiamo tuttora portando avanti un progetto in Sicilia, vicino a Palermo, molto molto interessante, su dei cani che vivono nel bosco, ormai anche questo almeno da 3 anni, con l'utilizzo di collari GPS, la collaborazione di un'associazione del posto. Stiamo portando avanti degli studi molto molto interessanti di questi cani, che diversamente ad esempio dai cani del Marocco o quelli che abbiamo trovato magari in campagna, quindi a Licola, sono cani più autonomi, più indipendenti, e che tengono delle distanze molto più lunghe dall'uomo. E quindi ecco, stiamo portando avanti anche questo, con delle collaborazioni che abbiamo aperto anche con delle università, con cui stiamo cercando di approfondire anche il settore della ricerca scientifica. Questo perché crediamo fortemente che del randagismo si è sempre parlato molto o emozionalmente o purtroppo spesso in maniera pietistica, e quindi quello che abbiamo capito anche durante questi anni è che anche un approccio scientifico insieme al nostro approccio poi, no, che è quello più appunto dalla scuola da cui veniamo, quindi cognitivo zoantropologico, però ecco che anche un apporto scientifico sia fondamentale per riuscire a far passare dei concetti e delle idee importanti anche a livello etologico sul cane, e per riuscire a mettere dei punti fermi un po', no? Per poter andare avanti nella questione randagismo. Diciamo che ecco, di progetti ne abbiamo conclusi qualcuno, ma secondo noi, a parte appunto delle collaborazioni come magari può essere stato Save the Dogs e altri che al momento magari non mi vengono in mente, però diciamo che la maggior parte dei progetti che portiamo avanti sono progetti a lungo termine. Okay. Questo perché? Perché quando parliamo di convivenza uomo-cane, quando parliamo dobbiamo veramente prendere tante cose in considerazione, no? Non si parla solo del cane, si parla veramente di un sistema complesso, no? Di cui fa parte l'ambiente, di cui fa parte l'uomo, di cui fanno parte gli animali, la società, la cultura, le tradizioni che fanno parte di quel luogo. E ogni posto, ogni situazione in cui andiamo è diversa dall'altra. Quindi non c'è un progetto strutturato che mettiamo in pratica ovunque andiamo. Ci sono sicuramente delle linee guida, delle idee che ormai portiamo avanti fortemente perché sappiamo che quelle sono le cose da seguire, ma poi in ogni posto dove andiamo dobbiamo prima analizzare tutta la situazione per poi capire realmente come intervenire, come poter aiutare un po' la convivenza in quel determinato luogo. Ok, perfetto. Io posso soltanto dire che da volontaria che si è fatta tante domande negli ultimi anni, la conoscenza del vostro progetto mi ha molto ispirata, quindi insomma sono assolutamente d'accordo con tutto quello che hai detto, perché l'esigenza di costruire una strada comune, ma soprattutto di costruire un'informazione comune, si sente fortissima, insomma, un'informazione, un confronto vero. Assolutamente, e anche una collaborazione vera e propria, perché sì, quello è sì, fondamentale, però logicamente quella si ottiene quando inizia a esserci apertura, quando inizia sì, a esserci, sai, anche conoscenza, no? Tra le persone, sì, tra le associazioni, e fiducia, quindi bisogna sì, ricreare un po' quella fiducia che si era persa un po' nel tempo, insomma, speriamo sì, di lavorare nella direzione giusta, insomma. Beh, in realtà negli ultimi anni, complice la pandemia, io da spettatrice ho visto che sia voi ma anche molti altri vostri colleghi avete fatto un lavoro di comunicazione molto importante e quindi secondo me in questo momento in particolare, in questi due anni in particolare, almeno a me sembra, che cioè, ho avuto l'impressione che si è dato più spazio al confronto, alla riflessione, non avendo poi la possibilità di lavorare sul campo, quindi magari le giornate passavano un po' più lentamente e quindi si passava molto più tempo a confrontarsi anche online, tramite dirette, eccetera, eccetera. Tutto questo pensate che abbia portato dei frutti? Guarda, sì, ti posso rispondere perché il lavoro che abbiamo fatto è stato un lavoro proprio pensato. In questi due anni sicuramente difficili, dove siamo stati costretti spesso e volentieri a non poterci muovere, abbiamo pensato comunque di portare avanti il nostro progetto, di portare avanti le nostre attività, e non è stato particolarmente difficile perché una delle principali attività che riguarda i nostri progetti è proprio quella di lavoro di cambiamento a livello culturale. Siamo consapevoli che un cambiamento a livello culturale e un lavoro attento sulle nuove generazioni siano probabilmente le basi per arrivare a risolvere delle difficoltà di convivenza, a risolvere il rapporto sbagliato che abbiamo con gli animali, con l'ambiente. E poi si arriva al discorso sociale, al discorso dei cani, ma inizialmente per noi è molto importante arrivare a fare dei passi in avanti dal punto di vista proprio del pensiero, e quindi abbiamo pensato di organizzare delle dirette su Facebook e su YouTube, sui nostri canali, che potessero comunque aprire delle finestre, creare, appunto, come dicevi tu, delle riflessioni, stimolare il pensiero e quindi aprire le porte a un possibile cambiamento. Sappiamo quanto in realtà sia complesso cambiare una persona adulta che ormai ha le sue sicurezze, ha le sue certezze a volte, no? E cosa invece molto più facile con le nuove generazioni, che sono un po' dei fogli bianchi su cui poter scrivere il futuro, no? E ovviamente i cambiamenti sappiamo che possono arrivare e che richiedono un processo importante, un processo a volte lungo e faticoso, che però può portare poi tutti a vivere meglio il rapporto che abbiamo sicuramente con gli animali, con i cani, nel caso specifico con i cani randagi, che in un certo senso sono sempre vissuti, no? E vivono tuttora in gran parte allo stato di libertà e non sotto forma di pet, no? come siamo abituati a vederli noi. E questo è molto importante come ragionamento, proprio per poter arrivare a concepire che certe cose che noi viviamo come problemi, come gravi difficoltà, in realtà è solo perché abbiamo un'ottica e una visione legata alla nostra generazione o a qualche generazione fa. Diversamente, proprio potersi aprire e poter conoscere più cose e più ambiti ti porta a poter rendere la tua mente più elastica e quindi ragionare con la propria testa e non fare i pecoroni, no? Per questo abbiamo organizzato tutta una serie di dirette con diverse altre associazioni o professionisti che lavorano sempre nel settore degli animali, della conservazione, dell'ambiente. E questo anche per noi è stato realmente formativo, realmente importante. Da lì poi siamo andati avanti, adesso portiamo avanti invece delle dirette più sul discorso della ricerca, quindi di studi che hanno fatto dei colleghi, che abbiamo fatto noi, insomma, quindi siamo convinti che questa cosa possa comunque andare avanti e che anzi sfruttando la situazione, appunto, di difficoltà della pandemia e approfondendo l'utilizzo degli strumenti di comunicazione che arrivano sicuramente, no, come dicevo prima, a più persone rispetto all'organizzare una serata in un determinato posto o qualcosa a livello fisico, pensiamo che siano strumenti molto importanti da mantenere e da poter sfruttare proprio per un cambiamento, una divulgazione a livello culturale fondamentale per noi. Ottimo. E a questo proposito, insomma, al di là della formazione, che è molto importante, io vi chiedo come si costruisce secondo voi un volontariato consapevole, perché poi ce n'è veramente bisogno. Sicuramente ce n'è bisogno, e guarda, dal mio punto di vista, ma penso di parlare anche a nome di Lorenzo e di tutta la nostra associazione, sinceramente negli ultimi anni stiamo vedendo che sta iniziando a cambiare un po' qualcosa, anche se molto lentamente. Sicuramente un volontariato consapevole si può costruire attraverso la conoscenza in primis, perché quella è fondamentale, quindi riuscire anche a entrare in contatto, no, con le persone che portano avanti un lavoro fondamentale sul territorio, chi lo fa proprio come aiuto, no? Cioè fanno un lavoro veramente importante. Noi, ad esempio, quando andiamo sul territorio a iniziare un progetto, la prima cosa che facciamo è conoscere i volontari, perché loro sono quelli che conoscono i cani, conoscono esattamente il territorio, ti sanno dire un sacco di cose, e da loro puoi prendere un sacco di informazioni che ti aiutano a capire molto di più la situazione. Quindi, ad esempio, per noi sono un riferimento i volontari sul territorio. Poi logicamente sono persone che vivono comunque una situazione emotivamente molto forte, e questo da prendere sempre in considerazione, perché vivono tutti i giorni in delle dinamiche in cui probabilmente si sentono soli, e questa è la cosa che notiamo di più, nel senso che spesso portano avanti un lavoro che dovrebbero portare avanti le amministrazioni, ma di cui si fanno carico, e quindi vengono poi completamente oberati, no? Di emozioni, di lavoro, di stress, anche a livello economico, no? Quindi sicuramente non è facile la loro posizione. Dall'altra parte sicuramente crediamo che la conoscenza e quindi la formazione sia fondamentale, e noi stiamo spingendo tantissimo da questo punto di vista, cioè dovrebbe essere una tappa fondamentale quella per fare il volontario, di sapere esattamente chi sono i cani e come bisogna gestirli anche sul territorio per non creare problematiche, perché ad esempio anche degli studi che abbiamo portato avanti, che abbiamo concluso e che di cui parliamo anche magari nelle dirette o di più nei seminari o nei webinar che facciamo, sono proprio studi dove abbiamo analizzato il comportamento dei cani diciamo che non avevano troppo contatti con l'uomo, e invece quelli che magari venivano alimentati dai volontari o che avevano contatti stretti con dei volontari in tempi lunghi, quindi ci creavano proprio una relazione, e abbiamo visto quanto una gestione sbagliata di tutto il contatto con questi cani o della relazione che si crea con questi cani o di alcune scelte che si fanno, ad esempio nel posizionamento dei punti cibo o nelle tempistiche in cui gli si dà il cibo, nell'abituarli a un determinato orario, portino poi a delle problematiche per i cani stessi. Quindi il problema cos'è? Che i volontari vogliono aiutare, quindi lo fanno a fin di bene, ma non avendo una conoscenza completa di quello che stanno facendo, tante volte finiscono poi per mettere in pericolo gli stessi cani che loro invece vorrebbero aiutare. Quindi questo sicuramente è un tassello fondamentale. Poi è logico che esistono volontari e volontari. Le motivazioni che stanno dietro al volontariato sono tantissime, lo sappiamo, e tante sono proprio umane, quindi anche dei bisogni. Però ecco, noi negli ultimi anni abbiamo visto un po' di cambiamento e tanta apertura, anche perché noi abbiamo lavorato tanto sulla collaborazione, sull'apertura e non sul creare muri e chiusura tra magari volontari e associazioni che cercano di analizzare questo fenomeno più nel dettaglio. E quindi ecco, abbiamo anche tanti contatti e tante richieste da dei volontari che vogliono capire di più o che seguono i nostri seminari per capire di più e riuscire a aiutare meglio questi cani che sono sul territorio, no? Dal loro punto di vista. Quindi ecco, stiamo lavorando in questo senso, insomma. Presente, ci sono anch'io tra questi volontari. Bene. Allora, vi abbiamo visto impegnati in Abruzzo ultimamente, insomma, dove siete diretti nel prossimo futuro? Ma beh, sì, sicuramente in Abruzzo stiamo facendo partire, anzi direi che abbiamo fatto partire ufficialmente un progetto molto interessante. Perché non ci vogliamo fermare ai soli fenomeni e ambiti che abbiamo già affrontato un pochettino legati al randagismo, che sono sicuramente i cani randagi in quanto randagi, i cani considerati semiselvatici, che abbiamo anche studiato e stiamo studiando, che vivono insomma vicino, a stretto contatto con l'uomo, ma non propriamente davanti alla porta di casa, ma anzi magari nei boschi, nelle campagne. Abbiamo studiato e ci siamo sicuramente interessati a tutto l'ambito legato ai cani padronali vaganti e anche ai cani di quartiere, insomma quella tipologia di cani che comunque sono quasi cani di proprietà o cani di proprietà però lasciati vagare. C'è un altro fattore che ci interessa molto, che è uno dei fattori assieme alla caccia alle zoomafie, appunto agli abbandoni, è uno dei fattori che comporta un gran numero di cani che vengono poi lasciati vagare o liberi sul territorio e che poi spesso finiscono in canile. E questo è il fenomeno della pastorizia, insomma è la vita dei cani da pastore. Siamo arrivati all'Abruzzo perché dopo alcuni nostri viaggi in Sardegna, dove anche è assolutamente molto presente la realtà ancora agropastorale, però siamo arrivati in Abruzzo, ci siamo trovati, abbiamo trovato una realtà sicuramente molto, molto bella e anche molto interessante da studiare. Siamo entrati in contatto con il Parco Nazionale d'Abruzzo e abbiamo iniziato questo progetto proprio di monitoraggio della situazione, dove, come diceva Clara prima, andremo ad analizzare tutta una serie di fattori utili proprio a capirne di più e a capire perché, per esempio, nei canili, magari proprio dell'Aquila, dell'Abruzzo in generale, la maggior parte di cani siano cani da pastore. E quello per noi è fondamentale, perché poi sappiamo bene quanto una tipologia di cani come quelli da pastore poi non sia così facile da adottare, non siano cani per tutti. E quindi siamo convinti che sia importante fare dei ragionamenti e pensare di fare qualcosa anche legato a questo ambito. Portiamo avanti poi, e quindi adesso inizieremo con questo progetto, avremo tutto un programma di campi aperti a chi volesse partecipare, darci una mano. Presso poco ogni due mesi andremo sul posto e porteremo avanti il lavoro di monitoraggio, di censimento e di possibili proposte proprio di cambiamento, di assestamento appunto delle cose. E poi diceva Clara prima che stiamo portando avanti questo progetto, che andrà avanti nel tempo, perché ci stiamo trovando molto bene con i ragazzi dell'associazione che lavorano sul posto, e è un progetto a Palermo, appunto sopra Palermo, molto interessante per il monitoraggio dei cani, appunto legato a un'idea anche gestionale, insomma. Abbiamo un altro progetto a Nicolosi, sotto l'Etna, sopra Catania, e anche lì con l'ASP stiamo cercando di lavorare sul monitoraggio di un gruppo sociale, e con l'idea proprio invece lì di studiarne i comportamenti, di approfondire tutte quelle che sono le dinamiche comportamentali, sociali del cane e di quel gruppo proprio, quindi con gli spostamenti, i cambiamenti nel tempo, e anche lì stiamo pensando di farne degli studi proprio a livello comportamentale, quindi con raccolta dati, e anche lì avremo bisogno comunque di supporto, e poi organizzeremo un qualcosa anche lì di aperto. Diciamo che per quest'anno anzi ci siamo fermati, perché spesso eravamo molto entusiasti e raccoglievamo tutte le richieste che ci arrivavano e cercavamo di andare il più possibile ad accontentare tutti, però con tutti i ragazzi dell'associazione ci siamo riuniti e abbiamo detto: se vogliamo comunque portare avanti un lavoro fatto bene, approfondire certe cose, è meglio concentrarsi su alcuni progetti che avevamo in cantiere o che comunque avevamo già attivi. Quindi per quest'anno, diciamo che e probabilmente anche l'anno prossimo, abbiamo questi tre grossi progetti da portare avanti. Poi si vedrà, le richieste continuano ad arrivare e nei limiti delle nostre possibilità noi proviamo ad accontentare un po' anche quelle che possono essere le richieste, Il problema è che ovviamente, come dicevo prima, per ogni spostamento, per ogni attività servono dei soldi e noi in questo, diciamo, ne abbiamo bisogno, no? E beh, quindi sì, infatti, molte volte noi cerchiamo l'aiuto dei soci piuttosto che il 5 per 1000, però assolutamente non è mai facile, insomma, questo ambito, che è necessario però. Assolutamente necessario, e poi ovviamente vi rimandiamo, magari poi mettiamo tutte le informazioni per potervi supportare, insomma, chi lo volesse, chi volesse supportare il vostro progetto può trovare il modo di farlo attraverso appunto 5 per 1000, donazioni varie e quant'altro, insomma. Sì, diciamo che sul nostro sito internet, sì, bene o male, che è www.straydogsinternationalproject.org, diciamo che si trova tutto, e anzi ci sono tutti i canali proprio per fare delle donazioni, per associarsi e quindi dare il proprio contributo a livello associativo, per donare 5 per 1000, per fare altri tipi di donazioni, insomma ci stiamo strutturando bene anche da quel punto di vista, proprio perché sappiamo quanto per poter dare un supporto, un aiuto, però serva un'economia, e quindi anche noi abbiamo bisogno della nostra economia per poter fare e accontentare le persone. A me purtroppo servono sempre i soldi. Sì. Allora, un'ultima domanda, più che altro una curiosità, perché ho visto negli ultimi giorni, qualche settimana fa, avete pubblicizzato un progetto che mi è sembrato molto interessante, che con l'hashtag che praticamente avete nominato con l'hashtag Cani in Festa. Ce ne volete parlare? Sì, guarda, volentieri, perché oltretutto è un progetto nuovo e ecco, siccome ci piacciono le sfide difficili, abbiamo deciso di accettare anche questa. Questa mi sa che è veramente tosta. Questa è veramente tosta, ma potrebbe riservare grandi sorprese dal mio punto di vista, nel senso che, vabbè, logicamente Stray Dogs ha sempre portato avanti uno studio dei cani liberi, però noi ci teniamo sempre a sottolineare come questo sia uno studio poi sulla convivenza tra uomo e animale, e siamo sempre stati molto attenti anche a tante altre dinamiche di convivenza uomo-animale, come ad esempio la convivenza che c'è tra, no? Quindi la gente che non ha casa e i propri cani, dove sì, abbiamo anche fatto delle interviste, insomma, per Kodami e tutto, dove abbiamo detto un po' la nostra, e anche abbiamo deciso di partecipare a questo progetto, che poi sarà in collaborazione con un'altra associazione che farà più la parte di il danno cinofilo, l'hanno chiamata, nel senso che è proprio sono dei ragazzi che saranno presenti a questo festival che ci sarà a Torino adesso a metà giugno, dove ci sarà un punto di primo soccorso veterinario e degli istruttori cinofili che daranno un po' di supporto per la gestione dei cani. Perché noi abbiamo deciso di partecipare e perché l'abbiamo chiamato Cani in Festa? Perché secondo noi è una realtà che spesso è demonizzata da quelli che non conoscono queste situazioni, e spesso invece è vissuta da chi vi partecipa in maniera completamente sbagliata con il proprio cane, e dall'altro punto di vista anche da parte di chi organizza dei festival o delle feste c'è poca conoscenza su come chi sono i cani e come bisogna gestirli all'interno di una situazione molto particolare come può essere una festa. Quindi ecco, adesso a metà giugno saremo presenti, io personalmente sarò presente a questo festival che si terrà a Torino, dove per la prima volta porteremo avanti questo progetto, e da lì poi ne parleremo, insomma, faremo questa prima osservazione per poi parlarne. Sicuramente è una realtà un po' nascosta, nel senso che solo chi vi partecipa può sapere realmente come vengono gestiti i cani all'interno, e poi come in tutte le cose ogni persona li gestisce a suo modo, e quindi lì poi sta un po' a livello soggettivo, no? Ed è lì un po' che i ragazzi della riduzione cinofila andranno a lavorare. Dal nostro punto di vista invece vogliamo riportare un po' più l'attenzione appunto su un tipo di convivenza molto particolare, perché poi ci sono dei filoni, diciamo, di persone, no, che vivono il cane in una maniera magari differente dalle persone che li vivono in casa. Quindi ad esempio parlo di persone magari un po' più, adesso passatemi il termine tra virgolette, un po' più nomadi, no? Persone che vivono ad esempio nei camper, che viaggiano tanto, che hanno sempre il cane con sé, dove il cane è proprio un membro della famiglia che è sempre insieme a loro, no? Oppure persone che vanno ai festival, che hanno il cane di famiglia e magari perché è diventato un po' uno status simbolo avere il cane, lo portano al festival, ma il cane è assolutamente a disagio perché in una situazione del genere non c'è mai stato. Quindi ecco, andremo ad analizzare un po' tutte queste cose, stiamo portando avanti con i ragazzi di Atlas Festival, di questo festival che ci sarà a giugno, una collaborazione molto bella anche su proprio il modo di impostare un festival anche per dei cani. Quindi abbiamo scelto questo perché è in un luogo molto naturale e che dà la possibilità di lavorare su delle cose. Quindi verranno messi delle cartellonistiche in giro, delle ciotole dell'acqua, saranno spiegate tante cose, delle zone, ad esempio dove c'è la musica, ci saranno i ragazzi della riduzione cinofila che spiegheranno delle cose alle persone. Ecco, secondo noi può essere un passo molto importante, soprattutto dopo l'anno scorso, dopo agosto, dove erano uscite delle informazioni veramente pazzesche su una festa che c'era stata, dove addirittura erano usciti articoli anche su giornali molto importanti di cani morti sotto il sole, cani mangiati dalle persone che erano alla festa. Ecco, siccome non ci piace poi seguire informazioni sbagliate, ma ci piace andare a fondo un po' a queste cose e pensiamo che ci possano essere anche degli aspetti molto interessanti da questo punto di vista, da cui prendere anche spunto, abbiamo deciso di aprire e di collaborare in questo progetto. Ottimo. Poi Clara, se vorrai, noi di Ipocrati ti ascoltiamo volentieri. Volentieri. Le vostre riflessioni, insomma, siamo molto curiosi. Veramente questo progetto mi ha colpito molto, quindi devo dire che sono molto molto molto curiosa di sapere, di ascoltare poi quello che ne è venuto fuori. E volentieri, sì, ci teniamo molto, guarda. Mi ricordo di questo rave perché poi tra l'altro è stato non lontano da qui, quindi esatto, nella regione Lazio, Umbria, comunque qui intorno, è stato abbastanza difficile, insomma, anche le notizie che sono girate non si è mai capito dove stava la realtà dei fatti. No, purtroppo si è capito perché le hanno smentite tutte, poi alla fine le hanno smentite, ecco, tutte. Sì, non sì, male. Sono state completamente smentite e anzi si è perso solo un cane durante la festa che praticamente tutti i partecipanti hanno provato a cercare per un giorno intero nei boschi. Quindi capisci, ci sono tante notizie purtroppo che vengono fuori e demonizzano delle situazioni dove sicuramente ci sono delle cose da aggiustare, perché come tutte le situazioni ci sono poi le persone che non sanno gestire il cane, c'è di tutto. Però ecco, secondo noi è qualcosa da analizzare meglio e da anche lì da portare un po' di conoscenza in più, sinceramente. L'informazione è sempre la base principale su cui muoversi. Assolutamente, esatto. Assolutamente. Allora ragazzi, io vi ringrazio moltissimo e per me è tutto, non so se volete aggiungere qualcosa. No, ma io no. Ok, e grazie di essere stati qui a Apocrasi. Grazie a te. Grazie mille a te. Bene, amici, per questo episodio è tutto. Ringrazio ancora moltissimo Lorenzo e Clara per averci dato questa opportunità. Vi invitiamo a sostenere, come vi è possibile, Stray Dogs International Project e a seguire il loro lavoro.